Hai dei figli con bisogni specifici in ambito educativo? Ti puoi rivolgere al SEST di quartiere. SEST significa Servizio Educativo Scolastico Territoriale. Il SEST di quartiere si occupa di diritto allo studio e accesso scolastico per bambini con certificazione di disabilità. Il SEST si occupa anche di promozione del benessere, di contrasto alla dispersione scolastica e di orientamento scolastico. Il SEST ha degli educatori che si occupano di progetti per la gestione del tempo libero, cioè di quelle attività per bambini e giovani al di fuori dell'orario scolastico, di spazi per il sostegno allo studio e di aiuto ai genitori.